Tutti Convocati Magazine. Tutti Convocati Magazine nell'ultimo weekend di calcio della stagione, poi sarà davvero tempo di vacanze, non lunghissime perché ritiri amichevoli e preliminari sono dietro l'angolo, ma da domenica notte più o meno alle 2 tutti sotto l'ombrellone a dilettarsi con il calciomercato. È il weekend di Brasile-Spagna. Avremmo potuto esserci noi al Maracanã contro i brasiliani, ci dobbiamo invece accontentare della finalina contro l'Uruguay. Non è detto che sia un male per gli scaramantici, perché chi vince la Confederations storicamente non vince il Mondiale, e non è detto che sia un male perché in fondo il bilancio di questa spedizione azzurra in Brasile, spedizione che era partita malissimo, si è raddrizzato con la semifinale contro la Spagna dell'altra sera. Saluto Alberto Cerruti della Gazzetta dello Sport. Alberto, buon pomeriggio. Buona giornata e buon fine settimana a tutti. Non è detto che sia un male, perché in fondo, almeno così, non ci concentriamo sul risultato finale, ma possiamo forse analizzare meglio questa avventura italiana in Brasile. Sì, direi che scaramanzia a parte bisogna avere lucidità e riconoscere che al di là della bellissima partita contro la Spagna dell'altra sera in cui avremmo meritato di vincere, il bilancio dell'Italia è da 6, perché nelle prime 3 partite ha vinto soltanto negli ultimi minuti contro il Messico, ha faticato tantissimo contro il Giappone quando non avrebbe meritato di vincere e poi ha perso male contro il Brasile. Quindi parliamo di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sì, un 6 che io credo sia la media tra un 4, che è il voto del girone, al di là delle 2 vittorie, e l'8 di una partita con la Spagna, che io non so come si possa in realtà analizzare. Di pelle si potrebbe dire che abbiamo confermato ancora una volta quanto valgano le motivazioni. Contro la Spagna eravamo animati dallo spirito di rivincita per il 4-0 di un anno fa a Kiev, e forse questo ha pesato. Probabilmente ha pesato anche il fatto che ci siamo arrivati con le assenze, senza Balotelli, e questo ha pungolato un po' il nostro orgoglio. Capita sempre, noi siamo costretti ad avere le spalle al muro. Sì, concordo. L'Italia, quando nei momenti di grande difficoltà, tira fuori il meglio. Non si dovrebbe fare così, perché bisognerebbe essere regolari e continui. Come è vero che l'anno scorso l'Italia arrivò cotta alla finale contro la Spagna, è altrettanto vero che questa volta è successa la stessa cosa ai nostri avversari, con la differenza che la Spagna seppe approfittare delle nostre debolezze vincendo 4-0, mentre noi, pur giocando un'ottima partita, non siamo riusciti ad andare oltre lo 0-0. E quindi l'Italia ha dato il massimo contro una Spagna al minimo, e il risultato è stato di 0-0 dopo 2 ore di gioco. Questo vuol dire che dobbiamo ancora fare tanta strada per superare la Spagna, che a mio parere rimane ancora la squadra più forte del mondo. Tu sei iscritto al partito di quelli che, se ci fosse stato Balotelli, sarebbe finita diversamente, il che, tradotto e anche provando ad andare oltre la semifinale dall'altra sera, puntando gli occhi su quello che saranno i prossimi 12 mesi, quelli di avvicinamento al Mondiale, significa che questa nazionale non può prescindere da Balotelli? No, io non la penso così. Io credo che le grandi squadre non debbano legarsi soltanto ad un giocatore, sia pure forte come Balotelli. Ricordo che con Balotelli in campo l'Italia fece 0-0 anche contro l'Inghilterra un anno fa, e poi andò ai rigori, passando ai rigori per arrivare all'altra partita. Quindi Balotelli è importante, ma se noi pensiamo che l'Italia senza Balotelli non possa vincere, sbagliamo. Anche perché può capitare nel corso di un mondiale che per una squalifica, che è un'eventualità da non escludere conoscendo Balotelli, per un infortunio che non è nemmeno da escludere, perché questo giocatore è molto fragile fisicamente, nonostante l'aspetto, io credo che l'Italia debba sempre pensare a delle soluzioni alternative che prescindano da Balotelli. Sottoscrivo, tra l'altro in tanti hanno accolto con scetticismo le parole di Prandelli alla vigilia della partita con la Spagna. Prandelli aveva detto: perderemo molto senza Balotelli, ma certamente cresceremo come qualità del nostro gioco. Sembravano parole di circostanza per non demotivare Gilardino e tutti gli altri che avrebbero dovuto far dimenticare l'assenza di Balotelli. Il paradosso è che invece l'Italia ha giocato meglio senza il suo uomo vetrina. Credo che questa sia, credo che questo sia un messaggio anche per Prandelli, che intorno a Balotelli ha cucito tutto il progetto tattico e tecnico di questa nazionale. Adesso ha un anno, secondo me, per trovare anche un'alternativa che non sia soltanto Balotelli, perché giustamente tra un anno poi Balotelli potrà anche venire il raffreddore. Sì, concordo pienamente. Questo è un messaggio in tre direzioni: per Prandelli, per Allegri e tutto il Milan, e per lo stesso Balotelli. Ripeto, l'Italia può giocare bene e può vincere anche senza Balotelli. Guai se si aggrappasse soltanto lui. Oggi si parla soltanto di lui. Io faccio un nome di cui non parla più nessuno: Pepito Rossi. Questo è un grandissimo attaccante. Se, come mi auguro, torna in buone condizioni, può essere l'uomo nuovo per il prossimo mondiale. Pepito Rossi, con Balotelli al fianco o con lo stesso Gilardino, può aiutare la nazionale a crescere e a non vivere soltanto aggrappati a Balotelli. Sì, questo mese di giugno Alberto Cerruti ha certificato la scomparsa di El Shaarawy dai radar. Credo ci sarà anche da chiarire quali sono i progetti del Milan, perché le stesse parole di Galliani questa settimana sono abbastanza criptiche. Balotelli incedibilissimo, è la stella del progetto, Pazzini non si tocca, con El Shaarawy parleremo. L'esperienza in Brasile ha certificato che davanti ad El Shaarawy in questo momento, anche nella testa di Prandelli, ci sono altri giocatori, a partire da Gilardino, lo stesso Giovinco, Candreva e Giaccherini schierati anche in ruoli più avanzati. È davvero un peccato, oltre che un mistero, l'eclissi di quello che rimane comunque un grande talento. Ma io sono molto sorpreso, perché sono un grandissimo estimatore di El Shaarawy e non capisco perché Prandelli non gli abbia dato un po' più di spazio in questa manifestazione, perché se non era in condizione di giocare, allora non doveva neanche partire per il Brasile, perché c'era tempo prima per verificare che non fosse in condizione. Se invece era in condizione di giocare, io dico che è stato penalizzato. Io penso che anche l'altra sera sarebbe servito più lui di Giovinco, per esempio. Io mi auguro che il Milan recuperi questo giocatore. Sarebbe una perdita per il Milan, per il calcio italiano, per la nazionale, vedere partire El Shaarawy per un paese straniero. Sì, è un po' vittima di Balotelli El Shaarawy, guai a chi l'ha scritto in questi mesi. Al Milan spesso si sono arrabbiati, Galliani ha bacchettato tutti quelli che lo avevano scritto. La verità però, al di là dei numeri, che poi possono spiegare anche un calo fisiologico di un ragazzo comunque giovane che non poteva proseguire sui ritmi della prima metà della stagione, la verità dice anche nelle scelte del Milan e nelle scelte di Prandelli che evidentemente El Shaarawy soffre molto la vicinanza con Balotelli. Ma io credo proprio di sì, e questo può essere il suo limite caratteriale. Ricordo che Gilardino soffrì molto la presenza di Vieri al Milan, di Ronaldo quando arrivò, e quindi in questi casi i ragazzi vanno anche incoraggiati, devono sentire fiducia attorno a loro. Io non capisco perché il Milan dichiari che è incedibile Balotelli ed è invece cedibile il Shaarawy, che ha 20 anni. Io credo che oggi, se il Milan si prepara ai preliminari di Champions League, lo deve più a El Shaarawy, che ha segnato 16 gol e che è stato decisivo nella prima parte della stagione, quella più difficile, tra l'altro, quella in cui il Milan non funzionava. Se El Shaarawy non avesse segnato quei due gol a Napoli quando il Milan perdeva 2-0, non sarebbe incominciata la rincorsa del Milan. Quando è arrivato Balotelli ha fatto la tavola apparecchiata, ha dovuto soltanto aggiungere qualche ciliegina, ma la grande rincorsa del Milan la deve al signore El Shaarawy. Quindi non trovo giusto che il Milan scarichi o stia per scaricare El Shaarawy come se fosse un giocatore qualsiasi, mentre è un talento da proteggere e da difendere. È una riflessione, chiediamo anche a Prandelli di farla. Tutti convocati Magazine. Insieme per analizzare il bilancio della spedizione italiana alla Confederations in Brasile con Alberto Cerruti della Gazzetta dello Sport. Per chiudere il discorso sulla nazionale, Alberto, ho l'impressione che questa esperienza segni forse anche il tramonto del progetto del 4-3-3, comunque di un'Italia in partenza più offensiva, che era l'Italia che Prandelli stava disegnando in questo biennio in vista del mondiale dell'anno prossimo. Sì, sono d'accordo anche in questo caso. Siccome le indicazioni sono utili anche quando sono negative, io penso che questa Confederations abbia dimostrato che non ci sono i giocatori adatti per interpretare questo modulo, e quindi il primo escluso, bocciato, se vogliamo usare una parola forte, è Cerci, che doveva essere tra i grandi osservati. Mentre esce molto bene Giaccherini, bisogna fare i complimenti a Prandelli perché ha creduto in lui nonostante il parere contrario della critica. A patto sì. Alberto, che smettiamo di chiamarla Giaccherino, perché io confesso, dopo dieci giorni non ne posso veramente più. Si chiama Giaccherini e credo che lui sia contento del suo cognome. Chi è l'altro che esce bene? E l'altro che c'è bene è Candreva, che aveva fatto un grande finale di stagione con la Lazio, è un giocatore molto duttile e può essere utilissimo in una rosa di 23 elementi. Giocatore assolutamente sottovalutato, Candreva. Sì, devo dire che Candreva è stato scoperto e lanciato da Lippi in nazionale quando giocava nel Livorno, sembrava una mossa azzardata, giocatore di grande talento, è andato anche alla Juventus, poi si è un po' fermato, però ha delle grandi qualità e soprattutto è un giocatore che può giocare sia sulla fascia, sia al centro, sia dietro le punte, e quindi sono convinto che sia un giocatore che in questa Confederations Cup abbia meritato un posto per andare al Mondiale tra un anno. Per chiudere, Alberto Cerruti, la Coppa se la giocano Spagna e Brasile, può essere la finale perfetta anche fra un anno, quando ci sarà da giocarsi il Mondiale. Io però ti dico la mia, non mi sono piaciute né Spagna né Brasile, e mentre il Brasile in fondo sta costruendo un progetto partendo quasi da zero con Scolari che è appena arrivato, io ho sentito suonare qualche campanello d'allarme nella Spagna, che mi sembra a fine ciclo, anche se l'età non lo dice, eh? Sì, la Spagna sta dando gli stessi segnali che ha dato il Barcellona nell'ultima stagione, è una squadra che ha un po' il fiatone, si vedeva quando inquadravano gli occhi di Xavi, che è l'elemento più importante, è un po' il loro Pirlo, è un giocatore che comincia ad accusare il peso degli anni di tante partite. È una Spagna che secondo me difficilmente ripeterà il prossimo Mondiale quello che ha fatto in questi anni. Il Brasile è una squadra giovane, però non è una squadra equilibrata, mi sembra anche lontanissima dalla possibilità di vincere il Mondiale. In un anno possono cambiare tante cose, ma se oggi io dovessi sbilanciarmi direi che l'anno prossimo non vedremo una finale Brasile-Spagna. Sì, Brasile che però, io mi sbilancio insieme a te, non giocherà tra un anno, immagino, con Fred e altri tre attaccanti alle sue spalle. Credo che questo sia un esperimento che Scolari ha riservato a questa Confederations. Tra un anno vedremo qualcosa di diverso, se conosciamo un pochino anche come ragiona Scolari. Sì, io ho seguito il Brasile di Scolari nel 2002 in Giappone e Corea del Sud. Lui è un allenatore molto equilibrato, molto concreto, un po' all'italiana o all'europea, se vogliamo dire, e quindi sono convinto che questo sia un esperimento utile, però l'anno prossimo toglierà qualche mezza punta e metterà o un centrocampista vero o un attaccante vero in più, perché questa, come dicevo prima, è una formazione molto ballerina, molto sbilanciata e che non ha grandi campioni, ha buoni giocatori ma non ha dei campioni. Sì, e Neymar lo valuteremo nel corso dei prossimi mesi al Barcellona nel calcio europeo. Grazie ad Alberto Cerruti. Grazie a voi, buon fine settimana ancora. Grazie ad Alberto Cerruti, Gazzetta dello Sport. Noi invece ci spostiamo su quello che è stato il lato meno bello di questa settimana. È stata anche la settimana delle notizie arrivate dalla Procura di Napoli, l'inchiesta sulla presunta evasione fiscale che coinvolge club, procuratori, calciatori, un sistema che rischia di provocare un nuovo terremoto nel mondo del calcio italiano e non solo. Ne abbiamo parlato con il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, uno di quei presidenti che con i procuratori ha avuto sempre un rapporto difficile. E allora sentiamo che cosa ci ha detto. Presidente, oggi molti scrivono che il calcio italiano è l'alba di una bufera che lo scuoterà dalle fondamenta. Lo pensa anche lei o, come spesso è capitato in passato, è un'inchiesta, sono rivelazioni, sono scoperte che poi lasceranno poca traccia? Non ce l'hanno quasi nessuna traccia. Noi siamo abituati in questo paese agli scoop e poi andiamo quando andiamo a fondo. Ecco, questo grande clamore non lo capisco. È una situazione delle intermediazioni dei procuratori del calcio che va risolta all'interno del mondo calcio con dei paletti precisi che non ci sono, per cui c'è una situazione secondo me abnorme dove i procuratori invece di essere pagati dai giocatori caricano i costi di solito sulle società E poi naturalmente le procure fanno bene attenzione se trovano dei capitani che naturalmente, o delle furbate che fanno andare i capitali all'estero, o dei mascheramenti vari, insomma, che ci siano delle regole precise, che però, ecco, dovrebbero essere tutelate dal calcio, non dalle procure. Certo, pare di capire che tutti sapessero tutto di questo sistema, però nessuno si è mosso, almeno fino a ieri. Perché? Perché noi siamo l'Italia, perché noi a un certo momento, non è che questi qui siano dei malandrini, ma addirittura a un certo momento siamo riusciti a fare dei regolamenti nel campo, delle regole per gli allenatori, dove uno deve fare un patentino, così viene chiuso dalla corporazione, chi deve entrare dentro, così hanno fatto anche i procuratori, così hanno fatto i direttori sportivi. Facciamo delle regole, dei paletti assurdi dove non servono. E dove serve, come in questo campo qui, dove ci sono di mezzo i soldi, essendoci di mezzo i soldi, c'è di mezzo anche naturalmente tutto un mondo che naviga a fare anche cose scorrette pur di prendere dei soldi, non abbiamo i paletti precisi, anzi mi sembra che siano stati convalidati con dei foglietti rosa, dei foglietti blu, io non li conosco perché per fortuna ci sono gli amministratori miei che curano il Palermo, io vado là una volta in 15 giorni, però quando l'ho scoperto, quando me l'hanno detto, io non ci credevo, no? Per cui hanno legalizzato le cose non regolari. Certo, lei ha avuto sempre un pessimo rapporto con i procuratori, un paio di anni fa è finito addirittura in tribunale con Simonian, il procuratore di Pastore. Ma non con i procuratori, che tanti sono miei amici, sono persone che rispetto, sono anche molto capaci. Ho un cattivo rapporto con questo modo di lavorare, un modo di lavorare dove i procuratori vogliono far andare a scadenza di contratto i giocatori perché ci guadagnano dei soldi sopra, perché a un certo momento vogliono cambiare da una società a quell'altra perché ci guadagnano dei soldi sopra, per cui non è il loro interesse, non è l'interesse dei calciatori di cui sono i procuratori. Ecco, va cambiato mentalità e modo di pensare, nel nostro paese è molto difficile. Ritengo impossibile che in Inghilterra i procuratori facciano quello che fanno in Italia. Beh, in Inghilterra si va a scadenza senza che succeda una guerra civile. Sì, esatto, senza che succeda una guerra civile, e naturalmente i procuratori sulla scadenza non ci vogliono guadagnare e non vogliono andare a scadenza perché poi rivendono il giocatore. Insomma, mi ricordo il mio giocatore Recoba che è andato a scadenza e poi mi dice hanno fatto una speculazione sopra. Sono un po' una casta i procuratori in Italia? Ma no, è diventata, io non li colpevolizzo loro, è diventata perché il sistema ha permesso loro di fare, in un certo momento, quando abbiamo eliminato i mediatori del mercato di tanti anni fa, no? C'erano i mediatori dei giocatori come il mercato delle vacche, e poi ci siamo inventati i procuratori, che sono sempre poi i mediatori, no? Con la scuola del procuratore sono mediatori, noi ci cambiamo il nome, invece dici la cambiamo IMU, però è sempre lo stesso, sempre una matrimoniale. Senta, però viene difficile pensare che voi presidenti, generalizzo, siate soltanto vittime di questo sistema. C'è chi scrive anche oggi i procuratori sono i primi nel mirino di questa inchiesta, ma poi arriveranno anche i club, i presidenti e anche i calciatori. Ma io non lo so, io che faccio andare avanti l'inchiesta, non penso che ci siano interessi, io penso che noi non siamo vittime, ma le società sicuramente si adeguano al sistema. Quando c'è un giocatore che per prenderlo tu devi passare attraverso una determinata porta, altrimenti lo perdi, probabilmente qualcuno passa attraverso quella porta perché è il sistema. Quando in Italia tu per ottenere un'autorizzazione da qualsiasi istituzione devi passare attraverso una determinata porta, altrimenti lo non ottieni, l'imprenditore passa attraverso una porta. Cioè, è un po' come pagare una tangente questa intermediazione. Direi che è il sistema che è sbagliato, siamo noi in Italia con i sistemi sbagliati, insomma, i paletti per essere reali e non demagogici. È un po' come pagare una tangente questa, cioè, mi sta facendo questo parallelo. Ma sì, il paragone è quello, no? Io non la chiamo tangente, la chiami come vuole, però gli ho fatto un paragone. È reale, no? Se a un certo momento una società dice io devo prendere Perez oppure che lo paragono a quello che l'hanno messo in galera della società che vende gli elicotteri, no? Dell'Augusta, e dice io per vendere gli elicotteri in India, se non gli do una percentuale all'indiano non vendo gli elicotteri, e se uno per prendere Perez se c'è in testa una delle clausole è quella di dover pagare il procuratore, lo pagherà, non lo so. Quindi insomma ha fatto anche un po' comodo questo sistema, c'è anche un po' di connivenza. Ma comodo alle grandi sicuramente, no? Perché i grandi club adoperano dei procuratori. Naturalmente io mi ricordo un giocatore che avevo preso in Inghilterra perché per fortuna avevo pagato tanto dal Chelsea quando era a Venezia e ha rifiutato perché c'era una squadra italiana d'accordo col procuratore che lo mandò a scadenza nel Chelsea perché dava al procuratore del giocatore una bella fetta di soldi. Questo è 15 anni fa, per cui il calcio non è che è cambiato adesso. Sì, lo scopriamo oggi leggendo i giornali da questa inchiesta. Ma voi giornalisti lo sapete da sempre. Non cambierà nulla? Ma io io spero che cambi, no? Io spero, ecco, l'unica cosa positiva di queste cose qui è che spero ci sia uno scossone e che cambi il positivo. Io non voglio l'eliminazione dei procuratori, voglio che i procuratori facciano i procuratori e non i mediatori. Cioè che abbiano un ruolo ben definito e possibilmente, esatto, delle regole d'accesso che siano chiare. Bravo, e ci siano delle regole ben precise da rispettare. Okay. Grazie Presidente. Prego. E agghiacciane quello che dicono che ho sentito. Giustizia è morta, giustizia sportiva morta al doppio. E che un campionato di Serie A, signori, lor signori, sia accusato di fratture false. Questo gioco del calcio sempre messo sotto la lettera di gradimento, signori miei. Secondo lo signori della guardia che si fidanza, ci sarebbero questi benedetti reati fischiati. E agghiacciate, signori miei, io ho paura. Un gioco del calcio messo sotto la gonna mediatica e una macchina del tango, bella e buona. E come diceva il premio Oscar Luigi Scalfaro, io non ci sto di petto. Non vi piaccio perché vinco. Chapeau. Tutti convocati Magazine. Andiamo sulle strade del Tour perché il mese di luglio sta per arrivare, è il mese di luglio, è il mese tradizionalmente in cui si corre il Tour, si gioca a Wimbledon, insomma quegli appuntamenti fissi che abbiamo imparato ad amare in tutta la nostra vita di appassionati dello sport. Andiamo sulle strade del Tour che quest'anno fa 100, fa edizione con numero tondo. Riccardo Magrini, Eurosport, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Andiamo sulle strade del Tour e speriamo di non rimanerci male, perché io credo non si possa non partire dalla considerazione che torniamo sulle strade del Tour e ci torniamo per la prima volta oggi dopo la bufera che ha cancellato una parte importante dell'Albo d'Oro, quelle 7 edizioni con un trattino, l'edizione di Lance Armstrong con una bufera che potrebbe arrivare ancora in queste settimane. Insomma, andiamoci con fiducia, però anche con misura. Sì, beh, certo, il ciclismo in questi ultimi tempi insomma, è sempre stato un po' nella bufera. Quest'anno partiamo dalla Corsica e quindi siamo dentro un'isoletta, speriamo che il mare per ritornare poi sulle strade francesi sia un pochino più tranquillo, con dei protagonisti di sicuro di grande valore. Siamo curiosi di vedere poi nelle 3 settimane cosa saprà fare Froome, che ha, insomma, a detta di tutti è chiaramente stato proposto questo duello all'arma bianca con lo spagnolo Albertino Contador, e speriamo che ci facciano vedere anche delle belle cose sia su in montagna e subito anche fra pochi giorni con la cronometro su a Nizza, che sarà una cronometro abbastanza impegnativa soprattutto anche per le situazioni meteo, lì c'è molto vento e quindi vedremo subito di che pasta saranno fatti i protagonisti almeno sulla carta di questo Tour de France. Sì, è una crono quella di Nizza che sembra disegnata per comunque segnare già in maniera importante questo Tour de France. Tu che conosci bene il Tour de France, i suoi meccanismi, i suoi personaggi, le sue facce, è un Tour ferito quello che è partito oggi dalla Corsica. Leggendo la stampa francese si parla molto anche di quello che potrebbe accadere, delle polemiche, di queste provette piene di epo che verranno associate a dei nomi, e non sarà una cosa indolore. È un Tour ferito fino a quanto? Sicuramente ferito, però per il popolo del ciclismo io credo che ormai sembra un'assurdità non per passare sopra queste cose che sono piuttosto gravi. C'è l'abitudine. Andare a pescare. Sì, beh, non c'è un'abitudine, però c'è anche un pescare nel passato che sicuramente non giova a nessuno, perché guardiamo il presente, guardiamo anche il futuro, ovviamente senza così passare sopra a dei fatti che sono accaduti nel passato. Certo è che chiaramente da partire da Armstrong e i suoi 7 tour è una macchia che si cancella male, è difficile. Ovviamente i francesi e il Tour hanno sempre professato, hanno sempre garantito anche la qualità e la regolarità delle proprie delle proprie manifestazioni, dei propri percorsi nel passato, però ancora andare a cercare nel passato, come insomma è successo anche ora di recente, l'ultimo Jean Labert, cose così che dimostrano che ci siano stati dei casi di doping, insomma non giova sicuramente, però al popolo del ciclismo io credo che poi fondamentalmente non è che interessi molto, perché se no non si spiega come mai continua ad avere successo e continua a riempire le strade. Sulla strada c'è sempre un sacco di gente, un sacco di folla che comunque apprezza anche quello che fanno i corridori, fondamentalmente è cultura, è... Tutti sanno i sacrifici e comunque la fatica che fanno i corridori, doping o non doping, quella è la base. L'equazione poi dopo è chiaro che uno dice ma sì, fanno questo perché magari sono dopati. Non è vero, perché comunque io ho fatto parte di un'epoca che insomma si faceva le stesse fatiche e la fatica insomma è comune per tutti, ma non c'erano nemmeno prodotti, quindi anche a voler rifare non si potevano fare, quindi si può fare, ma però ecco il parlare sempre comunque del passato, andare a cercare il passato credo che non giovi a nessuno. Io mi aspetto e spero, il ciclismo un po' è cambiato anche negli ultimi anni, si vede insomma ci sono le nuove generazioni che si ribellano anche a queste forme. Quando ci sono stati dei casi di doping anche al Giro d'Italia, i giovani si sono ribellati, si sono anche stizziti. Per sì, la presa di distanza è stata nettissima anche nel caso di Danilo Di Luca. Anzi, certo, in passato c'era una sorta di nonnismo all'interno del gruppo, nonnismo tra virgolette, però il peso degli anziani era un peso decisivo. Invece nel Giro d'Italia abbiamo assistito a prese di posizione a cui non eravamo abituati in passato. Dai, torniamo alla strada, i nomi li hai fatti tu, Froome e Contador. È un duello in cui gli altri non possono inserirsi, sono obbligati più o meno a fare da comprimari, mi viene in mente Valverde, Rodriguez, Cadel Leva, Sandy Schleck, però tutti che sembrano destinati a fare una corsa semplicemente dal terzo posto in giù. Sì, se fosse scienza e matematica però il ragionamento sarebbe perfetto, però si parla di ciclismo e quindi la strada è poi quella che poi darà la sentenza. Hai detto Andy Schleck, l'ultimo di quelli che hai citato, siamo tutti curiosi di vedere se ha superato i suoi guai che sono soprattutto più psicologici che altro, e potrebbe essere uno che potrebbe far saltare il banco in qualche azione, qualche attacco in montagna. Ci sono corridori come Rodriguez che ha preparato il tour in una maniera particolarmente perfetta, insomma a detta di chi gli sta vicino, dei suoi compagni di squadra anche. Valverde è un'occasione, deve fare forse l'ultima occasione, l'occasione della sua vita, ma in squadra con Valverde c'è un corridore che a detta di tanti potrebbe far veramente mettere in difficoltà anche Froome e Contador in salita, che è Nairo Quintana. Insomma i corridori ci sono e hanno tutti in mente quella che è far saltare il Team Sky. Il Team Sky è la squadra più forte, la squadra che ha fatto vedere in questi ultimi, nelle ultime prestazioni, anche al Giro d'Italia, pur saltando Wiggins, insomma, e poi è uscito fuori con Rigoberto Urán. Insomma, praticamente i corridori ci sono, i corridori. Sì, lo schema è abbastanza prevedibile, cioè tutti contro sì, il Team Sky, esatto, questo può tutti favorire Contador, che poi non ha tantissimi amici, però evidentemente quella del Team Sky è una dittatura che può dar fastidio a molti, almeno nella fase iniziale del tour, questo è un copione scritto. Sì, anche perché hanno uno schema solo, loro hanno una grossa potenzialità anche nella squadra, loro in salita si vede, si mettono davanti, cominciano a fare l'andatura e poi... Sono arroganti nel senso buono, nel senso sportivo, sì, no, del termine. Sono abbastanza... Sono forti, quando te hai la forza, la potenza, è chiaro che... mette anche gli altri in difficoltà e quindi anche cercare una soluzione diversa diventa difficile. Contador ha, a detta sua, sono state dichiarazioni anche di ieri alla di vigilia del Giro di Francia, alla partenza del Giro di Francia, ha a disposizione una squadra che mai ha avuto prima d'ora, quindi Contador si è preparato bene e certamente nelle ultime prestazioni non è stato, diciamo così, il Contador del passato. Ci sembra un po' un pochino più spuntato rispetto al passato, però sappiamo benissimo che il corridore spagnolo della Saxo è un corridore di grande classe e quindi magari potrà anche studiare qualcosa nel proseguo del Giro di Francia. È un Giro di Francia comunque che rimane sempre affascinante. Merita sempre di essere seguito. Perché, sì, perché comunque è una grandissima prova, prima di tutto dal punto di vista sportivo agonistico, poi anche per tutto quello che rappresenta. In chiusura, Riccardo Magrini, abbiamo ancora un minuto, noi italiani saremo costretti a guardarlo dal buco della serratura perché Nibali ci proverà a partire dall'anno prossimo, ci proverà per cercare, ha detto, di vincerlo. Abbiamo Damiano Cunego che è però non certamente un corridore da classifica. Io sono curioso di vedere Moreno Moser, però ci limiteremo, credo, a raccogliere, se riusciremo, qualche soddisfazione qua e là. Sì, beh, è chiaro che per gli italiani ambizioni da classifica non ce ne sono, se non nelle primissime posizioni della classifica. Magari Cunego è sempre un po' quell'incognita, perché non sappiamo mai se parte per fare le classifica oppure puntare alle tappe. Moreno Moser, c'è tanta curiosità, è la sua prima esperienza, è molto giovane, non dobbiamo caricarlo di responsabilità e aspettative. Poi oltretutto lì c'ha il corridore che insomma è chiamato a ripetere lo scorso anno, insomma, con tre vittorie, Peter Sagan, insomma Pietro Sagani della situazione, facciamocelo un po' italiano. Quindi è anche un po' chiuso, è anche un po' chiuso Moreno, però sarà interessante vedere come reagisce, perché poi da qui impareremo a misurare anche che tipo di carriera potrà fare. Grazie a Riccardo Magrini. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Riccardo Magrini, Eurosport, buon tour a te, buon tour a tutti. Noi ci fermiamo, ci sono le informazioni sul traffico e poi entreremo nel magico mondo della pallacanestro. Tutti convocati Magazine. Ultima parte di questo magazine che dedichiamo alla pallacanestro, che sotto l'ombrellone è andata da qualche giorno. Però sono anche giornate frenetiche queste, perché si sta disegnando quello che sarà lo scenario della prossima stagione. E allora noi non potevamo non parlarne con Coach Peterson. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Coach Peterson, buon pomeriggio. Ciao Giovanni, amici di Sport TV, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Good afternoon to everybody, ok? Si potrebbe attaccare un bel cartello lavoro in corso al basket italiano, sei d'accordo? Assolutamente, cioè, io devo dire questo, è l'estate, diciamo, post stagione, più movimentata. Io sono qui in Italia 40 anni, dal 73, e io non ho mai visto una cosa così. Cioè, le prime quattro squadre nei playoff, tutti hanno cambiato allenatore. Io penso delle otto squadre, cioè, rimane Sacchetti a Sassi, Menetti a Reggio Emilia e Mazzon, poi Milano ha cambiato allenatore. Sono 5 su 8 delle squadre dei playoff, nuovi allenatori in panchina, e anche altri movimenti, Caserta, Avellino, cioè, molto movimento le panchine e anche qualche movimento interessante per i giocatori, perché Siena ho letto le dichiarazioni di Ferdinando Minucci, che dice budget ridotto di 50%, quindi ovviamente fa qualche cessione, qualche cambio, qualche mercato, eccetera, e le altre squadre si adeguano a tutte queste qui. E poi mi penso che a Milano, con un nuovo allenatore, vorrà fare anche una squadra adatta alle esigenze del nuovo coach, quindi pure Varese, pure altre, quindi sarà molto interessante da vedere. Poi grandi nomi, si dice Hackett potrebbe lasciare, Siena, Datome potrebbe lasciare Roma, non voglio spingere niente, ok, perché però sì, cioè, sono le voci che sentiamo tutti. C'è cosa da farsi venire quasi il mal di testa, anche se mi sembra che il filo conduttore sia in queste due paroline, le hai dette anche tu, budget ridotto, più o meno che sia il 10, il 20, il 30, il 50%, è un po' il filo conduttore di queste giornate in cui si fa fatica a capire che stagione nascerà. Qualcuno con un pizzico, secondo me, di malizia, di cattiveria, ha detto: se l'anno prossimo Milano non vince, visto che le altre rifondano, si autoeliminano da sole, davvero non vincerà mai più. Partiamo da qui, partiamo da Milano? Well, ovviamente Milano verrà considerata favorita l'anno prossimo, con anche quest'anno. Cioè, ovviamente il campo che decide, ok, possono avere i nomi, i cognomi, eccetera, tutti, questo vale per Siena, vale per Roma, vale per tutti, perché quest'anno insegna tanto, quest'anno appena passato. Cioè, chi avrebbe scommesso su Roma andare in finale scudetto, cioè, un anno fa? Non avrebbe mai detto nessuno, okay, è stata ma una secondo sorpresa. Secondo me nemmeno sullo scudetto di Siena, o comunque in pochi avrebbero scommesso. Yeah. Well, sapevamo che Siena, per squadra Eurolega, avrebbe fatto una buona squadra, però cioè, la lezione per tutti, e anche bisogna dire che la società di Milano, ho letto la frase di del general manager Flavio Portaluppi, molto saggio, ha detto: meno nomi noti, più passione. E questo è stato il segreto, secondo me, di Varese, di Siena, di Sassari, di Roma, tanto per dire. Hanno scelto giocatori di grande passione, e molte volte hanno scelto dei fighters, quello che vanno in campo. Prendiamo Schiss e Laurent, che giocano per Roma. Non sono certamente giocatori di grande classe tecnica, però mettono in campo una energia, una grinta, un cuore che veramente non cosa che non si compra al supermercato. Quindi hanno rovesciato tutto, e secondo me anche Milano, pur possiamo parlare di budget, ma loro non guardano prendiamo i più costosi, loro hanno un'altra ottica sulla situazione quest'anno, secondo me, e fanno benissimo. Benissimo. Sì, ho letto l'autocritica di Livio Prolli, mi sembra che già a partire dalla scelta di Luca Banchi ci sia proprio un cambio di mentalità, un cambio di approccio. Tra l'altro Prolli che ha confermato che, fatta la scelta del coach, che è una scelta che ovunque viene vagliata, secondo me, legittimamente dalla proprietà, poi il progetto tecnico sarà in mano a Flavio Portaluppi. Armani rimane vicino, rimane innamorato della pallacanestro, penso che l'anno prossimo vorrà anche raccogliere, però mi sembra che ci sia una partenza davvero diversa rispetto agli ultimi anni. A me piace, ti dico la verità, ma non solamente per Milano, ok? Però Milano, piedi per terra, profilo basso, volare in basso, gente di passione, cioè, mi piace al 100% questo approccio qua. Quindi veramente, e secondo me questo aiuterà loro il campionato, perché il campionato l'ho sofferto tantissimo quest'anno, perché tante volte la squadra fatta da Eurolega dice: poi noi siamo una squadra di Eurolega, vincere a Montegranaro o Teramo è una roba facile. Invece non è così facile, okay? Perché i campi sono più piccoli, è tutto diverso, e quindi loro stanno facendo, a mio avviso, o faranno a mio avviso, una squadra, definisco, versatile, nel senso adatta per giocare in Eurolega, adatta per giocare in Serie A. Questo per me è cosa di grande saggezza. Quello che ha fatto Siena quest'anno, squadra molto duttile, molto versatile, squadra veramente che ha fatto delle cose, due che non sono centri, cioè, Sanechisi e Kangor, nessuno dei due è un pivot, però due alla grande che giocano insieme, tre piccoli insieme, quattro piccoli insieme, hanno fatto un po' di tutto, zona pressing, un po' di tutto, perché si sono adeguate alla loro realtà. Molto bravo in questo Luca Banchi a avere una grande lettura, una grande presenza tattica dalla panchina, e sì, si è visto il risultato. Ha firmato una stagione davvero straordinaria. A Siena andrà quasi certamente Marco Crespi, anche se credo, coach, tutto in realtà ruoti intorno al futuro di Mosse Hackett. Da lì si capirà che Siena vedremo l'anno prossimo, a prescindere dal budget, dalle difficoltà, dalla crisi di tutta la città, ma questi sono discorsi poi che ci portano lontano. Si parla di David Moss potrebbe andare all'NBA, tanto per dire, cioè, per me lui è un giocatore capace di giocare all'NBA, molto un tiro da fuori, uno contro uno, buon fisico, grande atleta, versatile, gioca guardia, gioca alla piccola, cioè proprio difensore soprattutto, cioè, tutte quelle cose lì, uno molto presente, reattivo, rimbalzi, quindi lui potrebbe anche farsi considerare la squadra NBA. Ovviamente i giocatori che hanno un futuro qui in Europa non vogliono rischiare tutto l'NBA, cioè se uno gli dà un contratto garantito, notaio, cioè probabilmente potrebbe andare, se no lui va l'autorale le sue opzioni in Europa. Hackett anche, secondo me, idem, nel senso che molto migliorato Daniel Hackett quest'anno, cioè fatto un è cominciato a fare questo salto l'anno scorso in estate con la nazionale con Simone Pianigiani e ha proseguito proprio quest'anno, per la verità anche a Pesaro con Luca Dal Monte. È molto molto maturato questo ragazzo, migliorato, grande uno contro uno, fisico, 2 metri, gioca guardia, gioca qualche volta anche playmaker per un attimo, entra senza paura, grande, cioè subisce 10, 7, 8, 9, 10 falle a partita, migliorato il tiro da 3, potrebbe anche giocare sulle carte, se no come mossa valuterà il mercato che c'è. Grazie coach. Ciao ragazzi. Grazie a Dan Peterson. Noi siamo arrivati in chiusura anche di questo nostro appuntamento. Io ringrazio Franco Piantanida, autore di questa puntata, Fabio Cantadori in regia. L'appuntamento con tutti i convocati è per lunedì a partire dalle 14:05. Un saluto anche da Giovanni Capuano e buon fine settimana.